Sotto il limite del cielo è una serie reportage in 5 puntate con testimonianze, memorie e interviste ad artiste, organizzatori, spettatori e staff del Bethlehem Festival Site Specific, tra Beit Jala, Betlemme e Hebron. Una serie audio in cui il teatro, come luogo di incontro tra identità, memoria e consapevolezza, si declina in uno strumento di ricerca artistica e resistenza in Cisgiordania. Bethlehem Festival Site Specific è il festival di teatro che ha ospitato la performance Footloose della compagnia teatrale Teatri in Gestazione. Il teatro, come strumento di conoscenza e scoperta, diventa spazio di incontro con il popolo palestinese. Questo è l'inizio di una storia, ma per raccontarla è importante testimoniare e farne parte. Il suono delle pietre. Luglio 2023. Sud della Cisgiordania. Ci accorgiamo di essere in Palestina da un cartello stradale alto circa 5 metri, largo 3, caratteri in bianco su fondo rosso, che recita in arabo, in ebraico e poi in inglese: "This road leads to Area A, under the Palestinian Authority. The entrance for Israeli citizens is forbidden, dangerous to your lives, and is against the Israeli law." L'auto costeggia per pochi secondi sulla strada di St. Virgin Mary Road, vicino ad un barbershop. Riconosciamo George, il curatore del festival. Lo salutiamo. Ci saremmo visti più tardi. L'autista prosegue e ci accompagna a 100 metri da dove siamo. Scendiamo in Al-Muhtaribin Street. Un'altra macchina ci attende. Al suo interno Nicola, altro rappresentante dell'Al-Hara Theater. Ci mostra gli alloggi in cui pernotteremo fino al 30 luglio. Apriamo il piccolo portoncino di ferro del cancello che separa la proprietà dalla strada. Un albero di melograno limita l'apertura totale del portoncino. L'intero complesso si presenta come una villa di pietra bianca su due piani, con porte di legno di un rosso ormai sbiadito dal calore del sole. È una struttura ricettiva per ospitare artisti gestita dalle persone che vivono nel vicinato. I nostri alloggi si trovano al piano superiore, raggiungibili da una piccola scala che termina in un arco, dal quale si apre un balcone terrazzato dove altre porte rosse si succedono. Due dalle quali si entra in un monolocale per due persone e un bilocale per quattro. Una volta posati i bagagli, ci dirigiamo dove avevamo incontrato George, alla sede dell'Al-Hara Theater. Marina e gli altri ci accolgono con affetto e calore, ci offrono un caffè arabo. Marina Bahram è cofondatrice e direttrice generale dell'Al-Hara Theater. Al-Hara significa quartiere. Si chiama così perché chi ne fa parte viene da differenti posti, da diversi quartieri vicinati. Ognuno di loro porta con sé diverse storie, diversi conflitti, idee, relazioni. Questo nome dà il senso di prossimità. Essere vicini alla comunità dà storie. Tutto inizia dal 2005, da un gruppo che aveva fatto teatro, che decise poi di fondare questa compagnia, sette tra attori, attrici, tecnici e registi. Lei viene dal settore di produzione. Al-Hara inizia a produrre teatro contemporaneo per bambini e giovani. Molte delle loro produzioni provengono da un'idea, processata attraverso ricerche approfondite. Collezionano diverse interviste per poi trasporre il tutto in un testo per la messa in scena. Successivamente si passa alla fase di prove e improvvisazioni e ottengono un testo su cui lavorare. Per produrre uno spettacolo impiegano dalle 4 alle 6 settimane di prove. La maggior parte delle produzioni e spettacoli per bambini è pieno di colori e musica perché vogliono che i bambini in Palestina si godano, almeno per un'ora, la loro infanzia. Spesso sono in tour in differenti scuole e centri culturali in tutta la Cisgiordania, raramente a Gerusalemme. Tutto dipende dalla situazione in Palestina. non hanno un loro spazio teatrale, se non un piccolo spazio, al Hara Studio, dove condurremo il nostro laboratorio per Footloose. Perché solitamente sono loro che vanno dal pubblico. La loro compagnia mette in scena spettacoli in villaggi di frontiera, in campi di rifugiati, dipende dallo spettacolo e dalla tecnica a cui si necessita. Come teatro portano avanti differenti progetti, organizzano workshop con compagnie europee. Artisti dall'Italia, dalla Svezia, dall'Inghilterra e dalla Germania vengono qui per lavorare una settimana con artisti del posto e insieme si cerca di sviluppare le competenze della compagnia, dei giovani e delle giovani artiste palestinesi che vi partecipano. C'è un altro progetto che si occupa di giovani con disabilità, cominciato 10 anni fa, con la coproduzione di un teatro svedese. Grazie ad un workshop con giovani donne cieche, hanno selezionato una ragazza che è diventata la prima attrice palestinese con disabilità. Organizzano 2 festival. Uno è il Palestine International Festival for Children and Youth Theatre, per il quale fanno una chiamata pubblica un anno prima, con un'application per diverse compagnie europee e latinoamericane. Quest'anno il festival comincerà il 13 e finirà il 20 ottobre 2023. Il secondo festival è stato inaugurato nel 2021, dopo il Covid, il Bethlehem Site Specific Festival. Betlemme è stata capitale della cultura araba nel 2020, ma per il Covid hanno dovuto posporre l'organizzazione. L'obiettivo prefissato fin dall'inizio è far rivivere l'eredità storica e culturale degli spazi nelle Old City di Betlemme, Beit Jala e Hebron. Per il festival hanno iniziato un laboratorio con registi scozzesi di teatro site specific all'inizio del 2020, poco prima del lockdown. Come risultato di questo laboratorio, 5 giovani registi emergenti sono stati selezionati per produrre i loro spettacoli per il palinsesto del festival, con la presenza di diverse storytellers che hanno performato con altri spettacoli. Dall'inizio di quest'anno, per la seconda edizione, hanno lavorato con Sally Shalabi, grazie alla quale sono state intervistate 25 persone anziane di Betlemme, Hebron e Beit Jala. Queste storie sono state commissionate a 10 giovani registi che hanno partecipato al workshop in aprile per scegliere quale personaggio trasformare in una produzione. Nella seconda fase del workshop, dei 10 registi, 6 sono stati selezionati, con l'aggiunta di 3 storytellers che portano altrettante performance nel festival. Il festival avrà inizio il 26 luglio e finirà il 30. Il primo spettacolo si avrà a Hebron, nella Old City, un luogo pieno di tensione a causa del settlement israeliano al centro della città. Ma questo evento artistico sarà davvero nuovo per la gente di lì. Mentre a Betlemme e a Beit Jala le performance avranno luogo in case vuote, disabitate e in corti di case. Con Giorgio e Nicola ci muoviamo in 2 auto per essere accompagnati ad un negozio per il cambio valuta. 4 shekel israeliani corrispondono a 1 euro. Poi ci spostiamo per acquistare una SIM card necessaria per eventuali spostamenti in autonomia e per poter così consultare internet e orientarci nel territorio palestinese. Da lì lo salutiamo e saliamo la via contornata da fast food, negozi commerciali, negozi per oggettistica tecnologica, bar. Una volta superato il semaforo, all'incrocio, siamo a Betlemme. Ci addentriamo nella città, venditori ambulanti ai lati della strada, auto che sgusciano da ogni angolo, carrettini da trasporto merci, musica araba ad alto volume, uno scenario familiare. Ci inoltriamo sicuri di raggiungere la piazza principale, Menger Square. La strada si biforca, scegliamo di proseguire seguendo le indicazioni per la chiesa cristiana. Arrivati nella piazza, alle nostre spalle c'è la moschea. Di fronte vediamo la Basilica della Natività, costituita da 2 chiese e da una cripta dove Gesù è nato. Entriamo attraverso la Porta dell'Umiltà, per cui bisogna abbassare la testa. La chiesa è divisa in 3 navate. La navata centrale porta all'abside, da cui partono 2 discese verso la cripta. mentre sui muri delle due navate laterali ci sono quadri e mosaici risalenti ai primi secoli dell'anno 1000. Dalla cripta ci spostiamo alla chiesa di Santa Caterina, adiacente alla struttura, dove una dozzina di persone all'interno del cortile stanno in posa per le fotografie di celebrazione di un battesimo. Proseguiamo il nostro cammino turistico verso Milk Grotto, dove Gesù fu allattato dalla Vergine Maria. Cerchiamo poi la chiesa di San Giuseppe, ma la troviamo chiusa. Programmiamo un breve itinerario per raggiungere Beit Jala. Uno scenario piuttosto desolante appare davanti ai nostri occhi, su St. Joseph Street. Costruzioni fatiscenti, resti di materiali di scarto e di materiali in plastica ammucchiati agli angoli della strada, condomini spogli, ancora in buona parte sorretti dallo scheletro edile, abitati da famiglie numerose. Il cellulare dice di proseguire e, difatti, continuiamo il nostro cammino. Sembra quasi che il GPS ci indichi la strada più lunga, tuttavia riusciamo a non perderci. Arriviamo a St. John Street, in Beit Sahur Old City, un centro abitato tra Betlemme e Beit Jala. Decidiamo di riposare per un po' ed entriamo nel bar La Citadelle. All'interno del bar intravediamo un piccolo teatro che viene trasformato, per l'evenienza, in sala riunioni e in sala studio. Non siamo gli unici clienti stranieri del bar. Arrivano persone di nazionalità diverse, francesi, inglesi, australiani. Noi ci godiamo il fresco vento che spira sulla copertura del cortile esterno al bar e il suono, proveniente dagli altoparlanti del paese. La preghiera, Atan. Si ripete per circa 20 minuti. È forse in questo momento che ci sentiamo accolti definitivamente dall'atmosfera di questi paesaggi. È bellissimo far rivivere queste pietre grazie a queste performance e portare la gente a visitarle e portare un diverso tipo di calpestio nel luogo. L'uso della storia orale, delle testimonianze delle persone e delle performance site specific sono importanti per molteplici ragioni. Non si tratta solo di far rivivere questi luoghi antichi in modo diverso, ma anche di mantenere vivo un diverso tipo di memoria e un diverso tipo di storia della vita, ricreando uno spazio per le vite quotidiane delle persone, le lotte quotidiane, gli eroi di tutti i giorni, per farsi avanti e parlare della nostra storia, in modo che non si tratti di un'unica narrazione. La nostra narrazione come popolo palestinese è una rete intessuta di tutte queste vite diverse e di lotte sempre diverse, come i dettagli e i particolari. Ma si tratta davvero di un'unica narrazione che le riunisce tutte. Come vivere sotto l'occupazione? Cosa significa avere colonie di insediamento intorno a noi, che esistono e si muovono intorno a noi? E come resistere generazione dopo generazione a tutto questo? Quindi è importante conoscere le lotte dei nostri anziani. È importante mantenere vivo ciò che hanno passato le persone che erano nei diversi partiti politici, come hanno resistito all'occupazione e come continuiamo a farlo oggi, per darci una sorta di spinta in avanti in queste diverse generazioni. Molti dei nostri giovani non sanno cosa hanno fatto i loro nonni o bisnonni o cosa significhi essere nel contesto di oggi, ma queste storie e queste narrazioni andrebbero perse altrimenti. Sarebbero rimaste nelle loro famiglie. Sarebbero rimaste su piccola scala o sarebbero state completamente cancellate, perché alcuni di loro non pensano che le loro vite siano così spettacolari, perché sono andate avanti. Per me c'è una tale ricchezza nelle loro storie, c'è tutta la loro vita e devono essere celebrate e riconosciute, e noi dobbiamo ascoltarle e sentirle. Sono parte di ciò che siamo oggi e credo che questo sia davvero bello. Chi non ha storia, non ha futuro. Per questo dobbiamo conoscere la nostra storia. Luglio 2023. sud della Cisgiordania. Lei è Sally Shalabi, storyteller professionista con sede in Giordania, ma si esibisce anche in Palestina come narratrice palestinese. Ha lavorato con Al-Hara Theater alla seconda edizione da febbraio, raccogliendo le storie che sono state utilizzate in tutti gli spettacoli. Sul ruolo dell'Al-Hara Theater ci dice che dalla prima edizione alla seconda il risultato più grande che stanno raggiungendo è aver creato un movimento nello spazio teatrale in Palestina. Una generazione di registi, una rete di attori palestinesi e produttori teatrali, professionisti del teatro e leader di generazioni diverse. Questo significa anche elaborare i confini della città e della geografia e del muro a tempo parziale. Quindi tutto questo non è che l'inizio di questa storia per il movimento teatrale, ma vedere questo nuovo spazio creativo è importante da testimoniare e farne parte. Siamo in un luogo lontano dall'Italia, migliaia di chilometri. Un luogo dove dalle prime ore si percepisce l'aria pesante che si respira e scende placidamente dal cielo. Dall'imprevedibilità dei suoni che provengono da ogni angolo della strada e dalle numerose storie sepolte nell'ingiustizia, dalle colline alle valli. Qui il cielo sembra avere un limite oltre il quale aleggia il silenzio. Tuttavia, siamo consapevoli di essere al sicuro e questa sensazione non corrisponde alle contingenze politiche.